Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altro caso concreto da raccontare insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. I casi concreti vengono seguiti anche dagli avvocati, ancora una volta con esito positivo. Ben ritrovata Gioia Barbato. Grazie mille, buongiorno a tutti. Come dicevamo dunque, caso positivo, anzi non solo uno, perché mi pare che la clonazione della carta PostePay sia purtroppo abbastanza diffusa, ma per fortuna si riesce ad arrivare a soluzione positiva, giusto? Esatto, abbiamo avuto una grandissima vittoria, soprattutto in quest'ultimo periodo, viste anche le tante segnalazioni che abbiamo avuto in merito alla clonazione di carte prepagate PostePay. È proprio freschissima la notizia che Poste Italiane ha riconosciuto rimborso a due dei nostri soci, con due modalità e in tempi completamente diversi, ma in entrambi i casi il caso si è risolto positivamente. E quindi, se possiamo entrare in dettagli, evidentemente senza fare nomi, queste due vicende come si sono sviluppate? Allora, intanto ti faccio una piccola premessa, anche per far capire agli ascoltatori come si svolge questo tipo di pratica. Allora, in tutti i casi in cui un utente capisca che gli è stata clonata la carta di credito o la tessera o il bancomat prepagato, in tutti questi casi si aprono due scenari. Un primo scenario che viene comunemente detto uno scenario, diciamo, in sede penale, dove è necessario che l'utente si rechi presso la polizia postale o presso i carabinieri ed effettui un'apposita denuncia. Quindi in questo caso qua questa azione ha unicamente l'obiettivo di individuare gli ignoti, tra virgolette, e i veri colpevoli della sottrazione indebita dal proprio conto corrente. Il secondo scenario è quello scenario che poi si sviluppa in sede civile e che si è strutturato in due passaggi. Un primo passaggio che consiste in una diffida, quindi una lettera di reclamo nei confronti di Poste Italiane, dove si tenta stragiudizialmente di ottenere il rimborso. Nel caso in cui Poste Italiane non dia una risposta soddisfacente o addirittura rimanga inerte e quindi non risponda alla richiesta dell'utente, si può proseguire in sede civile, quindi in sede giudiziale e davanti al giudice di pace. Ecco, nei casi concreti che abbiamo affrontato qui in Adico, i due casi che si sono risolti positivamente finora sono il primo caso che si è risolto in sede giudiziale, quindi la nostra socia, di cui non farò il nome per un discorso di privacy, la nostra socia aveva tramite noi di Adico aveva presentato una formale lettera di diffida nei confronti di Poste Italiane, dove sostanzialmente lamentava che il sistema di sicurezza messo in atto da Poste Italiane era un sistema insicuro e quindi il trattenimento in debito della somma di denaro era avvenuta proprio per esclusiva colpa e responsabilità di Poste Italiane. Questa diffida è stata poi disattesa, quindi Poste Italiane non ha risposto. Allora noi di Adico abbiamo messo a disposizione dei moduli, dei veri e propri atti di citazione che abbiamo distribuito ai nostri soci. I nostri soci sono degli atti sostanzialmente strutturati in serie, dal momento che il problema è analogo per tutti gli utenti, e con il quale c'era la possibilità di adire al giudice di pace. Quindi Poste Italiane, una volta che si è vista recapitare l'atto di citazione, quindi una volta che si è vista chiamata a controversia in sede giudiziale, ha subito erogato il rimborso nei confronti della nostra socia. Ecco, questo fino all'ultimo centesimo. Fino all'ultimo centesimo, sì, ci ha messo due settimane, però comunque la lettera, insomma, di accettazione della richiesta di rimborso è arrivata in tempi brevissimi. Comunque, una volta notificato l'atto di citazione, nel giro di una settimana era già arrivata la lettera con la quale l'avvocato di Poste Italiane ci chiedeva di non proseguire oltre in giudizio e di, insomma, di trovare una soluzione in via transattiva, ovvero di abbandonare la causa e di dare alla socia la corresponsione dell'intero importo sottratto. Quindi scegliendo questa formula, Poste Italiane ha detto che la socia, insomma la persona, la cliente aveva ragione. E questo era il primo caso. Il secondo invece, che dicevi, aveva seguito una strada diversa? Esatto, il secondo caso è stato addirittura molto più fortunato, forse perché è stato improntato sulla scia del primo, dove Poste Italiane si è fermata prima. Quindi in questo secondo caso è stata sufficiente una prima lettera di diffida da parte di Adico, quindi un tentativo di risoluzione stragiudiziale che è subito andato a buon fine. Quindi solamente con la nostra lettera di diffida, dove chiedevamo a Poste Italiane di erogare il rimborso per la somma sottratta, e Poste Italiane ha subito risposto positivamente, quindi con la risposta ci è arrivato anche l'indicazione dei tempi e delle modalità per l'erogazione del rimborso. Ecco, questo è il secondo caso che è stato molto più veloce e a mio avviso più favorevole, proprio perché aveva aperto la strada il caso della nostra prima socia, dove noi comunque siamo andati avanti combattivi e siamo addirittura riusciti a portare questo caso in giudizio. E quindi dopo il secondo ci sarà, immagino, anche il terzo, il quarto, perché credo che le segnalazioni di questo tipo di clonazioni, come dicevo in apertura, purtroppo sono tante. Sì, guarda, noi qui in associazione ne abbiamo veramente tantissime e contiamo di portarle tutte avanti fino a quando tutti i nostri soci non avranno il rimborso dell'intera somma sottratta, anche perché abbiamo visto che ci sono delle buone possibilità. E quindi io invito tutte le persone che abbiano avuto questo tipo di problemi a rivolgersi ad Adico, anche perché ormai abbiamo instaurato, non dico un rapporto, un canale diretto, insomma un rapporto diretto con Poste Italiane, però comunque hanno già avuto modo di approcciarsi con noi. Insomma, l'unico tentativo non è quello di speculare, quindi di chiedere risarcimenti del danno, rimborsi di spese legali, ma solamente quello di far riavere al nostro socio la somma che gli è stata indebitamente sottratta. Ecco. Che precauzioni si possono prendere in questi casi? Ora, purtroppo in questo caso nessun tipo di precauzione, perché comunque Poste Italiane offre questo tipo di servizi finanziari, ma che comunque non prevedono una forma assicurativa, come ad esempio hanno tutte le altre banche, gli altri istituti di credito. Solitamente quando una sottrazione indebita avviene in un istituto di credito come una banca, generalmente quel prodotto, quella carta di credito è assicurata, e quindi una volta dimostrato che la sottrazione del denaro, che il prelievo è stato effettuato da una persona non autorizzata, in quel caso là la banca, essendo assicurata, riesce a rimborsare con molta più velocità l'utente. Nel caso di Poste Italiane queste sono degli strumenti finanziari che non sono assicurati, quindi è stato questo il problema. Per questo motivo Poste Italiane inizialmente negava tutti i tipi di rimborso, e quindi abbiamo dovuto intervenire noi di Adico per fare in modo che una persona venisse rimborsata di quanto sottratto indebitamente. Bene, sapere che c'è una soluzione rende più facile anche affrontare il disagio e il problema che si verifica. Con l'Adico ci ritroviamo tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie intanto all'avvocato Gioia Barbato e buona giornata. Grazie a te, buona giornata a tutti. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.